from the bylands of Valeria East. Behold, Shakti with DMC and Wild Wild Women. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. I'm at my girlfriend in a hotel. She looked sad, so I asked, are you okay? She said, sit your ass down, I wanna tell you some. New day, same bullshit. Where you coming from? Their eyes looking like the balls popping. Calm yourself, bro, I was just walking. We jump when they say crisscross your legs. Calling karma a bitch, cause she made you beg. I'm just traveling, rolling, growing. I looked at the mirror, I caught the drawer drooling. Damn, wait a minute, what the hell you doing? I got booty. Amusement. End of the date, now it's time for the bill. Pockets full of cash and looks that kill. Girl, I'm sure you split that shit. Wait, did the waiter just ask him my pin? Okay. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. 19.01 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa sta per iniziare una nuova puntata in diretta di Likewise. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. I'm not sub say yeah. Say yeah. Dalla Sani che Pinclo per un'oretta di musica insieme. Bola compare. Bad bunny sa. Sangathan mein hamari itni shakti hai ki humse ab tumhari fatti hai. Tere kyun? Unnava. Jaane de. Chukke na. Morning yam. Bira na supara. Namara. In the cusp of 2022 blossoms a feminine revolution. Spreading positivity and light. Every day a woman's day. Every day a new fight. But we play and we play. Ogni giorno è il giorno delle donne, il giorno, giorno della lotta. Le Wild Wild Women, la nostra nuova sigla. Bentrovate e benvenuti a tutte e a tutte a Likewise. Questa è la 95esima puntata della nostra quarta stagione. Questa è Radio Onda Rossa 0649 1750. Per raggiungerci al telefono mentre siamo qui appunto per un'oretta assieme a dare il via diciamo al martedì musicale di Radio Onda Rossa, likewise @ondarossa.info se volete contattarci via mail, mandarci contributi, suggerimenti o quello che vi pare. Abbiamo anche un canale Telegram likewise_trx dove appunto potete poi ricevere gli aggiornamenti, podcast e, insomma notizie della trasmissione, molto poche, molto, siamo molto rispettosi dei insomma dei trillini e dei messaggini che arrivano su tutti i nostri contatti e quindi insomma soltanto l'essenziale, questo è soltanto l'essenziale. Trovate sul nostro canale Telegram, così vi viene voglia, l'audio intero della nostra rubrica erratica ed episodica che non vi ripeterò il titolo perché è quasi uno scioglilingua, però quella che ci ha mandato il contributo che ci ha mandato la nostra ascoltatrice Olivia su Chap and Ron, tutto quello che dovevate sapere, che forse pensavi di non dover sapere e invece dovevi ma likewise non te lo racconta, quindi te lo racconto io. E chiunque può contribuire a questa rubrica, se ci sono ascolti, artiste che noi non intercettiamo, likewise ovviamente ci saranno perché non pensiamo di essere onniscienti, potete sempre mandarci un contributo audio, raccontarci chi sono, cosa fanno e perché invece dovremmo proprio ascoltarli tutti quanti. Sì, esatto, potete farlo, mandarci il vostro contributo proprio via audio, senza vocali, quello che vi pare, insomma, cercando di raccontarci quello che volete. Noi se è necessario lo ripuliamo, se non è necessario meglio ancora, e vi mandiamo perché ne siamo super super felici. Cominciamo, scusate la voce di questa sera che è un po' roca e insomma quindi faccio un po' fatica, ma con grande piacere. Cominciamo subito con un artista che un po' di settimane fa ha un po' di settimane fa, dico bene, non sto dicendo male. In realtà esce oggi. Sì, no, il disco, l'EP esce oggi, quindi ci faceva piacere. Super. Esatto, quindi ci faceva piacere farvelo riascoltare, comunque farvi ascoltare un pezzo da questo EP. Abbiamo presentato in anteprima proprio qui in studio con Nancy Tungsten, la nostra amica musicista, insomma, e anche amica della radio, insomma anche voce della radio in passato, e quindi esce oggi questo EP per insomma parliamone dopo, adesso intanto sentiamoci il pezzo. Delicate friction, ce désir. s'attrait sans pouvoir se rejoindre. Et soudainement invertissent leur magnétisme. Nancy Tungsten, Tendere, il titolo di questo EP uscito proprio oggi per la Goodfellas, quattro pezzi, diciamo, come raccontava anche a questi microfoni Nancy, a lungo diciamo lavorati, sedimentati. Uno di questi era già uscito in precedenza, ma esce in una versione molto diversa. Ci sono delle collaborazioni con musiciste che comunque hanno fatto parte già della vita musicale di Nancy, altre no. Stellan Veloce e Elisa Bella e Alice Salvagni al basso, e poi appunto la collaborazione in produzione e mix con Giada Squarcia. Quindi bel lavoro, andatevelo a cercare, insomma compratelo, chiedetelo, fatelo girare. Se recuperate anche le puntate di la puntata di La Quais, dove lei è stata ospite in studio, che appunto ci ha raccontato tante cose, anche tanti pensieri, abbiamo fatto dei ragionamenti insomma collettivi sulla musica, sulla possibilità, la facilità o meno di fare musica oggi, di farla in maniera indipendente per come si vuole, eccetera eccetera. Quindi cercate la puntata sul sito della radio onderossa.info, basta che cercate Likewise o Likewise-TRX, vi escono tutte le nostre puntate con una piccola descrizione del contenuto, così potete trovare quello che vi interessa. Secondo pezzo della scaletta è il mio tormentone della settimana, loro sono Fake Fruit, Mucho Mistrust. fingertips are choosing in, but you didn't seem to see. Pity sake, double take, I shake you till you are awake. You just lie there while the world's weight crushes me. I got a secret and it's eating me alive. You want me for forever, I think I want a new life. I am emotionally digging to the other side of the world with only a spoon. Make a choice after months and months, and somehow still feels too soon. Surgically stay a sign right through my heart. Flashing neon dawn, fishing, proceed with caution. Do not enter passive care, not for sale by everywhere. But for good and out of office, wrong way detour, railroad crossing, hot price clearance, no passing private property. Horse crossing, buy one, get one, we buy gold, live, new, girls, girls, girls, construction, liquidation. Grand reopening, grand re-reopening, grand re-re-reopening. Everything must go. I got mucho mistrust, Fake Fruit, secondo album per questa band, primo con la Car Park Records, quindi insomma una nuova etichetta che ha messo nella sua scuderia questa band, uscito il 23 agosto, quindi quando eravamo in pausa estiva, e recuperato subito per voi. Chissà se Note Cose Città lo mettono tra i dischi. Ah no, perché agosto, loro stasera fanno i dischi di ottobre. Ah, ecco. Quando aveva 18 anni, Anna D'Amato, che è la voce e chitarra di questa band, diciamo anche un po' il fulcro, insomma, il progetto stesso di Fake Fruit. Un trio. Esatto. Che poi, insomma, nel tempo si è un po', cioè sono cambiate le figure. Ma il centro, Anna D'Amato, è appunto quella che ha ideato questo progetto musicale, e raccontavano in un'intervista che quando a 18 anni aveva provato ad entrare, ha fatto un'audizione per entrare in uno dei college musicali, insomma di quello che sarebbe il nostro conservatorio più prestigiosi americani, il Berklee College of Music. Durante l'audizione, con la sua chitarra, un tipo della giuria si è alzato e gli ha abbassato il volume del amplificatore. Se fosse stato un uomo non l'avrebbe mai fatto. esatto. E quindi è pazzesca questa cosa, però sì. Io cioè, e infatti lo raccontiamo per sì. Questo lei racconta che insomma si era sentita ovviamente insultata da questa cosa, aveva mollato l'idea di entrare in questa prestigiosa tra virgolette college di musicale e ha detto vabbè, allora io faccio la band, lasciamo stare, va ciao. Bene così, va bene così, siamo bene così. Vengono dalla Baiera, sono Eria, sono in giro da lei è in giro dal 2016 appunto con queste varie reincarnazioni della band. E sembra aver trovato quella che funziona. Era uscito un disco omonimo nel 2021 che aveva riscosso, ha riscosso parecchio successo, anche molto passaparola. Nel mentre appunto hanno cambiato etichetta, esce questo disco che è accolto ancora meglio, perché ho letto delle recensioni veramente entusiaste preparando la puntata. E non erano le mie. Non erano le tue, no, quelle insomma sulle riviste blasonate che conosciamo. E quindi erano molto attesi, devo dire, le attese hanno superato per alcuni addirittura le aspettative, quindi adesso li aspettano tutti al terzo disco. C'è questo eco di Sonic Youth e Pixies dietro, questo indie rock molto libero, però sì, molto... anche un po' diciamo il modo di scrivere di Kenny Bunnett che mi viene in mente, il suo modo di cantare, recitare un po' i testi, molto divertente. Poi il disco è molto vario, quindi non vi fermate al pezzo che abbiamo ascoltato, perché in realtà sono molto diversi tra di loro i pezzi, anche se si legano tutti insieme, ma hanno una loro storia, una loro melodia, un loro andare, molto, tutti molto diversi uno con l'altro. Quindi è un disco molto interessante, anche se non è il mio genere preferito, devo dire di averlo già ascoltato un paio di volte, è un disco fatto anche molto bene. Inoltre c'è una bella copertina disegnata, e raccontava la D'Amato anche questa storia, che quando insomma l'intervistatrice le chiedeva com'era stato il passaggio alla Car Park Records, come si era trovata, e lei raccontava: guarda, io ho mandato la copertina del disco, che è un disegno con un gatto e un topo che insomma fanno una sorta di si danno la zampa per fare una sorta di affare, e come potete immaginare Mucho Mistrust, il titolo dell'album oltre che del pezzo che avete ascoltato, significa tanta sfiducia, tanta diffidenza, e questa copertina sta un po' a rappresentare proprio la diffidenza nei confronti dell'industria musicale e come l'industria musicale stritola le artiste. Tra l'altro ne parlavamo anche con Nancy nella puntata che citavi prima, quindi insomma molto carina anche questo aspetto. Lei diceva in realtà l'hanno presa bene, l'hanno accettata, non hanno detto nulla, e quindi insomma probabilmente ci sarà una bella relazione con questa etichetta. Per fortuna che ogni tanto ci si riesce. 19:18, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa sulle 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e dintorni. Salutiamo tutte e tutti quelli che ci ascoltano in DAB invece a Terni e a Viterbo. Lo ricordiamo anche un po' per tutti che basta cercare Onda Rossa sul DAB e ci trovate, almeno in quelle province. Magicamente appare. Salutiamo anche tutte e tutti quelli che ci ascoltano in streaming dal sito dove c'è Ascolta la diretta. Prossimo pezzo di questa sera, lei si chiama Emma Russock, In 2001. Thank you. 2001, la voce di e la chitarra di Emma Russack, tratto dall'album Bad Girl, uscito il 24 agosto, quindi anche questo lo recuperiamo dalle uscite di quest'estate. Dai, prima che finisce l'anno. Per la Dinosaur City, australiana, nata a Naruma, suona in questo disco, praticamente suona tutto in questo disco, e in parte anche ha prodotto questo disco, vive a Melbourne. Dai, l'autarchia unica via. Ed è il suo sesto disco, suona insomma dal 2009, è in, diciamo, sulla scena musicale. Nel suo Bandcamp c'è scritto c'è una frase molto bella che vi volevo, diciamo, proporre, almeno farvi ascoltare. C'è scritto alla fine, diciamo, della presentazione dell'album, eccetera eccetera, c'è scritto Emma Russack and the Dinosaur City, cioè l'etichetta, vogliono omaggiare il popolo Wurundjeri della Kulin Nation, appunto il popolo indigeno di quella parte di quella terra australiana, che sono, diciamo, i proprietari, gli abitanti, e sono stati, sono e saranno i proprietari di questa terra, gli abitanti di questa terra. Quindi ringraziamo la loro, questa popolazione, ed è una cosa molto importante. Ne abbiamo già parlato in altre, diciamo, citazioni di altre artiste, visto che ultimamente passano molte australiane dalle nostre parti. Ed è vero, tutte quelle che passiamo in realtà hanno molta attenzione per questo tema. Adesso io non conosco assolutamente il dibattito che c'è in Australia, so che sono molto duri con le leggi sull'immigrazione, quindi immagino quale sia la politica interna anche nei confronti dei nativi, appunto. E è molto bello che ci siano delle artiste che prendono, diciamo, posizione, direi. Cioè, sì, c'è una grande sensibilità rispetto a questo, e devo dire che, insomma, ogni volta che possiamo anche far ascoltare artiste che ci piacciono musicalmente e ci piace quello che raccontano, e che hanno, appunto, come dicevi tu, una posizione precisa, netta rispetto a questa questione, cioè delle popolazioni aborigene, devo dire che, insomma, è importante raccontarlo. No, soprattutto in questo momento in cui il tema del colonialismo vediamo bene che cosa produce, in questo momento un genocidio per esempio, ma anche nel passato non è andata diversamente, e nel futuro non andrà diversamente se non si spezza questa storia del colonizzare i luoghi di altri e farli propri. Se vogliamo invece un po' tornare al disco, il tema del disco in qualche modo, almeno per come ce lo racconta Emma Russack, è il tema del fascino e del desiderio. Ho trovato interessante che quando ha scritto questo disco lei pensava al film Tar di Todd Field, che non so chi di voi ha visto, che è un film che a me ha turbato assai, lo dico sinceramente, però è un film che forse più sul desiderio e sul fascino, credo sia un film sul potere, o comunque sul potere che deriva dal desiderio e dal fascino, dal trovarsi in posizioni di non so se conoscete la trama. Lei è una direttrice d'orchestra interpretata dalla bellissima, strabellissima, super bellissima, non volevi arrivare qua, diciamo, che la verità, Kate Blanchett, e bravissima oltretutto, perché al di là di tutto è veramente una grandissima attrice, tra l'altro australiana anche lei, e da quella sua posizione, in qualche modo, lei interpreta una lesbica, da quella sua posizione comunque usa quel potere per avere relazioni sessuali e per insomma trarne benefici personali. E quindi c'è questo tema del potere, per una volta visto da un punto di vista diverso, che non è quello dell'uomo, però effettivamente secondo me poi il tema del potere è di che cosa ci si fa, di che cosa ci fanno le persone che ne hanno, suscita molte interrogativi. Io quando sono uscita dal film sono andata a controllare se fosse una storia vera, perché avevo i capelli dritti. Però per fortuna non lo è, almeno non sembra che lo sia. E quindi insomma, cioè, questa è una delle cose che ha ispirato questo lavoro, quindi il fascino, il desiderio, il tema in qualche modo del fascino persuasivo e quindi del potere che puoi avere sugli altri, ed è esplorato in queste 10 canzoni. Da un punto di vista musicale, insomma, è un album che probabilmente arriva piano piano, e a me è piaciuto molto anche dal primo ascolto, ma poi ascoltandolo più volte insomma arrivano delle altre cose, quindi noi ve lo consigliamo. About the Girl e Marussak, prossimo pezzo, loro si chiamano Foxia, Muro di Casse. Cassa. Mi viene il vomito al pensiero che è un paese lontano e vicino da me. Sganci, missili e bombe su scuole. So giù che un popolo nulla si muove. Mi sento sopraffare da un pensiero atroce. Rappresaglia su di un popolo che non ha voce. Dividi e t'impera. Chi tace non si schiera. Chi prega là chi spera. Chi invece va in galera. Perché difende la libertà di un popolo. E non si piega un dittatore senza scrupolo. Sradicheremo il colonizzatore come l'ederà. Noi canteremo Palestina libera. Sradicheremo il colonizzatore come l'ederà. Noi canteremo Palestina libera. Foxia o Fuxia, insomma, fuck è diciamo la parte iniziale di questo nome, di questa band, di questo trio. Muro di Casse, questo singolo uscito lo scorso 4 ottobre, tra l'altro con problemi e censure, perché ogni volta glielo levavano dai vari social dove l'avevano messo, insomma, in preascolto prima che uscisse ufficialmente. Musicalmente non nella nostra bag of chips, come si direbbe, nel senso che appunto questo mix techno non è proprio una delle cose che ascoltiamo tantissimo qui a Likewise, ma ci sembrava intanto figo il testo e comunque bello passare una band emiliana che scrive queste cose, una band queer di art attiviste, come si autodefiniscono, e l'album, che però non contiene questo singolo, si chiama Exagerate, è uscito credo prima dell'estate, esatto, prima dell'estate per la Elastico Records. Esatto. Diciamo che poi questo è un pezzo così, poi magari appunto nel corso delle ci nuove sono varie esperienze, cose, esatto, sì. Ci sono varie cose, perché comunque c'è anche un po' di attitudine sicuramente punk, si vede, self, quindi non c'è solo questo suono. È vero che non passa tantissimo da Likewise, però appunto sono tre attiviste queer, tre musiciste, performer, produttrici, e si sono messe insieme a gennaio 2021, quindi diciamo sulla coda della pandemia, e in qualche modo hanno dato un vita a un EP che si chiama 12, che è uscito sempre per l'Elastico Records nel 2021, e hanno poi tirato fuori questo disco a maggio di quest'anno, e quindi ci sembrava comunque bello segnalarlo, anche perché, come dice Donna, non è che ci sono tanti progetti indipendenti, esatto, italiani. Molto spesso le cose più interessanti che troviamo sono di artiste italiane che lavorano all'estero, principalmente magari in Inghilterra, o di jazziste, come stasera ci capiterà. Esatto. Che sì, stanno qui in Italia, ma che appunto stanno in un ambito musicale che ha un po' una sua, un suo modo di stare dentro l'industria musicale, che è diverso, insomma, dalla musica indipendente, questa che ha a che fare con il rock, con il punk, comunque. E soprattutto che è, diciamo, in cui la produzione artistica e musicale è strettamente collegata con l'aspetto, diciamo, l'impegno politico della band stessa. Quindi sono state in tour, tra l'altro, dal marzo di quest'anno, praticamente ovunque. Ci saranno ancora alcune date, se siete da quelle parti e ci ascoltate, in Germania ai primi di novembre, quindi se avete voglia di ascoltarle, di andarle a vedere al vivo, sicuramente sarà un bellissimo live, ve le consigliamo. Prossimo pezzo, un ritorno, lei si chiama Nilou Feyania, Method Actor. Dreams get faded. Why go back so soon? What you keep in that room? Keeping me down. Old school glamour. Can't get much faster. Missing around till I shake with laughter. Come place your dagger. Yeah. Fergiania, Method Act, tratto dall'album My Method Act, uscito il 13 settembre scorso per la Ninja Tunes. Vabbè, insomma, abbiamo letto un po' tutto di lei: chitarrista britannica, origini caraibiche e turche. Brava, mi veniva la parola. Credo che diciamo l'abbiamo messa anche in anteprima, no? L'abbiamo messa in anteprima quando in realtà avevo fatto uscire il singolo che poi è finito in questo disco, che quando l'abbiamo messo ci sembrava che era un disco, una canzone insomma che annunciava il suo arrivo nella Ninja Tunes, ma non c'erano ancora idee di disco. Invece poi alla fine è uscito, ci avevamo ragione, è uscito quasi subito, sì, perché è uscito a settembre, quindi in realtà si vede che c'era già del materiale pronto. Devo dire che è un disco abbastanza compatto, cioè, se mi viene una parola da compatto, sì, perché lei ha lavorato praticamente insieme a Wilma Archer. Lei, solo loro due hanno prodotto questo disco, hanno suonato questo disco. Wilma è una produttrice di musica elettronica abbastanza conosciuta, e si vede anche questo, c'è un tocco di elettronica in questo disco che nei precedenti insomma non c'era, almeno non così, con una personalità così ben definita. E il disco ha abbastanza, secondo me, esatto, compatto, molto, che funziona insomma dall'inizio alla fine, molto preciso. Ok, preciso. Ci sono in giro anche un EP con dei remix, quindi potete trovare anche qualcosa di ancora più nuovo di questo album insomma che vi stiamo presentando. Devo dire che ne ha fatta abbastanza di strada la nostra Niloufer, da quando almeno io personalmente avevo scoperto nel 2016 con l'EP Small Crimes Keep on Calling, che se non avete mai ascoltato andate a recuperare. Devo dire che insomma, appunto, come dicevi tu, la parte più elettronica viene fuori in questo album. Spero che con il tempo, anche se ovviamente rispettiamo l'evoluzione musicale dell'artista, recuperi anche quella parte un po' R&B che faceva proprio, esatto, che mi piaceva moltissimo nella mescolanza di generi che comunque l'ha caratterizzata sempre, della sua voce e del suo modo di cantare, quindi che adesso insomma in questo disco si sente meno. Comunque è molto bello, ve lo consigliamo, ascoltate. Sì, è vero, questa era l'unica cosa che anch'io avevo notato, che si è perso un po' di spirito R&B, però appunto come dici tu magari lo recupera, noi siamo qua pronti ad ascoltarla. Prossimo pezzo, il sesto pezzo di questa scaletta, questa è Radio Onda Rossa, noi siamo Likewise, lei si chiama Anna Butters, Bishop. Thank you. Anna Butters, Bishop era il pezzo che abbiamo scelto da questo bellissimo album che si chiama Mighty Vertebrate, uscito il 4 ottobre scorso per la International Anthem. Che dire? Che è il suo debutto in questa etichetta. Esatto. Ed è invece il suo secondo disco. Il suo secondo disco, in realtà la sua, diciamo, produzione musicale è decisamente grande. Figua. Sì, perché insomma compare in quanto bassista e compositrice in tantissime produzioni musicali che girano intorno alla scena musicale di Los Angeles, collaborazioni con, diciamo, artiste che passano spesso da queste parti, Phoebe Bridgers per dirne una, ma insomma Andrew Bird è un altro musicista che ci piace molto, Makaia McCraven, insomma Amy Mann, che insomma è un'altra musicista passata da queste parti, insomma tanto lavoro in questo album, appunto questa sorta di progressive jazz praticamente strumentale, che veramente è un viaggione, quindi noi ve lo consigliamo. Sì, sì. Buttatevi dentro e concedete il tempo giusto per questo album, che è veramente molto coinvolgente. A un certo punto, leggendo delle cose su questo disco, su di lei, ho scoperto perché mi risuonava tanto e mi stava piacendo molto, perché c'è anche ospite John Parker dei Tortoise. Tra l'altro la copertina l'ha fatta il batterista dei Tortoise. È vero. E poi John Parker ha suonato in alcune tracce. E sì, è anche questo post rock un po' jazzato che è appartenuto tanto ai Tortoise, soprattutto nei dischi che li hanno in qualche modo resi famosi. Non so se conoscete la band. Io c'era un periodo che ero molto in fissa col post rock e tutte le sue diramazioni, quindi avevo incrociato anche i Tortoise. Poi sei guarita? Non tanto, perché comunque resta uno dei miei generi di lezione, perché a me piace molto la musica strumentale in generale. Ho trovato molto divertente sul suo, mi sa, Bandcamp lo racconta, insomma, che è sempre stato in tour nel 2022 e ha cercato un po' lo spazio per scrivere questo disco, perché aveva voglia di scrivere musica, e dice che il modo migliore per farlo, ha scoperto, era darsi dei compiti molto mirati, molto piccoli e discreti, come per esempio farò una canzone in cui il basso non svolge il ruolo del basso, oppure ci lavorerò per un'ora e poi mi fermerò, oppure voglio creare una canzone che utilizzi tre gruppi di fraseggi per le battute, voglio campionare qualcosa e trasformare, insomma si è dato dei piccoli compiti. E poi però ovviamente, come fanno spesso le persone con un talento e sono delle artiste, ha lasciato andare libera, cioè si è dato un compito, poi però quel compito è andato dove voleva e ha tirato fuori queste composizioni. Una sorta di gioco musicale. Esatto, praticamente sì, con se stessa tra l'altro, perché comunque se li dava da sola, quindi. Il prossimo pezzo di questa scaletta, Jasmine Forty, Elephant. Song for you, the elephant is in the room. When I'm by myself, it's just the walls. I paint my nails and paint my eyes, try not to cold. But look at this, it's all for you. What's a different size? words we say. Questa era la voce di Jasmine Forti. Elephant è il singolo che preannuncia l'album You Are The Morning, che uscirà per la, le solite, dovremmo dire, Saddest Factory Records, che è appunto l'etichetta creata da Phoebe Bridges, che ritorna in questa in veste invece di appunto produttrice. Tra l'altro, nella produzione di questo, del singolo Skin on Skin e dell'album che uscirà, ci sono anche le sue ex compagne o compagne, no, comunque di progetto, sì, perché il progetto in realtà è fermo, non è finito. Julian Baker e Lucy Dacus, appunto, di Boy Genius, come dicevamo. Quindi, insomma, è un progetto, devo dire, molto interessante, di questa compositrice, cantante trans che si chiama Jasmine Cruikshank. E comunque lei è la prima artista britannica che ha scritturato l'etichetta Saddest Factory Records. Yes. Sì, esatto. E chiaramente, diciamo, come racconta Jasmine in alcune interviste che, insomma, abbiamo potuto leggere, molte della scrittura di questo album e di Elephant che avete ascoltato è appunto legata al periodo, al suo periodo di transizione e a tutte le cose che hanno accompagnato questo periodo, in particolare diciamo la grande importanza, raccontavano in intervista Jasmine, della comunità, delle persone da qui anche Forti, no? Quindi T4T, il fatto appunto di stare, di circondarsi da persone che fanno parte della tua comunità e che ti permettono di trovare, costruire e rinforzare un posto sicuro dove vivere e affermare quello che vuoi essere, quello che sei. Sì, perché non è stato facile, le ha detto appunto, questa canzone l'ha scritta molto presto durante la sua transizione e parla del suo primo amore Trans for Trans, penso che si dica T4T. E parla di quanto si soffre perché si cerca di essere amici ma si vuole essere entrambi di più. Dice che la sua vita a Bristol è andata in qualche modo in frantumi quando ha fatto coming out e, non avendo un posto sicuro dove vivere, si è ritrovata, insomma, a stare sul divano dei suoi amici gay a Manchester e un po' traumatizzata, senza riuscire a iniziare una relazione. Però dice: è stato molto terapeutico quindi registrare questo brano a Los Angeles con Phoebe, Lucy e Julian, insieme alle sue bambole, come le chiama lei, di Manchester, Eden e Phoenix, e con l'apporto dei musicisti trans locali, delle musiciste trans locali Vixen, Bobby e Eddie, e naturalmente recente col Trans Chorus of Los Angeles, che appunto, forse avete sentito nella canzone. Alla fine, nel finale di Elephant, appunto, che fa parte poi delle registrazioni che sentiremo nell'album. È un indie rock folk molto bello, sono dei testi molto, diciamo, molto emozionali, molto importanti, quindi insomma ci piace farvelo ascoltare, ci è piaciuto farvelo ascoltare, e a me Elephant mi è entrato in testa e non mi esce più, quindi ecco. E mo sono le 19.53, quindi intanto noi cerchiamo di arrivare almeno al pezzo numero 9 della scaletta di questa sera, che a 10 ormai non ci arriviamo più, e quindi ascolteremo Due in Dita con Born With Power. Born with power. You don't have to fight. You don't have to fight. You already got it. You don't have to fight. You don't have to. You. Finisce così Due in Dita, Born With Power, tratto dall'album The Mind Is a Miracle. Artista molto interessante, intanto come avete potuto ascoltare, molto libera nell'espressione musicale e vocale, ovviamente. Diciamo, è un album abbastanza stimolante, a me mi ha fatto venire voglia di riascoltarlo più e più volte. È una musicista che ha cominciato qualche anno fa, molto molto giovane. Il vero nome è Candice Camacho, se non ricordo Camacho, male. Sì. I miei appunti non scorrono perché si è bloccato tutto, quindi sto andando così a braccio di quello che mi ricordo. Sì, Candice Camacho vive a New York, è cresciuta nel Queens, ha studiato al Clive Davis Institute of Record and Music della New York University, per il quale è uscito, diciamo, il suo primo disco, tra virgolette, cioè nel senso che il suo primo disco è stato in qualche modo la sua tesi di laurea, se sì, così si può dire. E adesso sono passati circa 6 anni da quel lavoro ed è uscito quest'altro album. Devo dire che è un aspetto che non sempre qui a Likewise frequentiamo, perché è un artista molto spirituale che parla molto in qualche modo di Dio, o quantomeno di un'entità superiore, però riprende a mio avviso quindi questa tradizione della musica nera che ha a che fare con gli spirituals piuttosto che con il gospel e con tutto quel pezzo lì di musica che ovviamente è una parte anche della loro cultura. Sì, e in generale con, diciamo, spesso ne parliamo in realtà di questo, invece con l'idea della musica come appunto uno strumento di cura, diciamo di guarigione, di supporto alla parte più spirituale di noi. E sì, tu parlavi insomma della questione religiosa, in realtà appunto lei in un'intervista sì, dice: io prego Dio e mia madre, che esatto, secondo me sono la stessa cosa, esatto, quindi insomma no, è sì, un'idea di religiosità molto, molto particolare. Sì, secondo me infatti più che religiosa è spirituale, esatto, con quel tipo di spiritualità, appunto un'entità superiore, ma anche Dio intorno a noi, cioè nel senso quella cosa anche molto tra virgolette laica, esatto, dell'essere spirituali, e per questo anche in qualche modo ci è piaciuto ascoltarla. E sì, poi c'è tutto un discorso sull'empowerment, che è una bruttissima parola, però in qualche modo sul darsi forza nella comunità, dar forza alle donne nere, le racconta ovviamente di come si è sempre sentita fuori posto, come appunto ha subito il razzismo e questioni che sappiamo molto molto bene. Perché appunto ricordiamo che ha origini portoricane, e quindi insomma sì, è un album molto interessante, diciamo fuori dagli schemi, in qualche modo difficile da collocare in uno specifico scaffale della libreria o dove appunto riponiamo i dischi, però è un esperimento molto interessante, quindi insomma sarebbe carino sapere che cosa ne pensate. Questa è la nostra sigla. Hai Doing Ok. Di sì, puntuale. Abbiamo chiuso puntuali. Likewise è una selezione di nuove uscite di artiste, donne, trans e non binary, prevalentemente indipendente, con i racconti, una manciata di storie che raccogliamo noi. Vi vogliamo ricordare che Likewise @ondorossa.info è il modo con cui comunicare via mail con noi, e iscrivetevi al nostro canale Telegram likewise_trx. E allora quindi siamo quasi pronte a lasciare i microfoni di Radio Onda Rossa a Note Cose Città, che inizierà alle 20:15. Siamo all'ultimo martedì ottobre, quest'anno ci ha regalato 5 martedì, quindi di questo siamo state anche abbastanza contente, visto che a settembre non abbiamo trasmesso, quindi abbiamo tuffato in un mese pieno di martedì, e quindi saranno con le uscite migliori del mese di ottobre, non ve le perdete. E sapete che noi siamo sempre in gara con Note Cose Città, quindi no. In gara no, perché delle gare non ce ne frega niente. In sporchissima competizione seguirà Note Cose Città, la trasmissione Semilla Musica dal Mondo. Questa sera sarà dedicata, dopo la puntata delle cantanti e compositrici italiane degli anni 60, quest'anno sarà dedicata agli anni 70, questa sera sarà dedicata alle compositrici e cantanti degli anni 70, e poi Morfire, quindi restate all'ascolto di Radio Onda Rossa, sostenetela. Vi ricordo che sempre sul sito non c'è attivo il radio abbonamento ancora, ma potete sempre sostenere Radio Onda Rossa, basta che andate sul sito, sapete che abbiamo sempre bisogno di voi. E niente, abbiamo saltato Vita Polidoro, vi lasciamo con questo spoiler della puntata della prossima settimana, e buona serata a tutti, ciao ciao. Okay.